Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. C'è Oscar che canta. Ogni mattina, oh, ed ogni sera. E vabbè. Lo so, roba lo so, vecchia, roba vecchia, roba vecchia. Però in realtà, caro Oscar, siamo qui. Roba vecchia, ma oggi la canti perché beh, c'è un motivo particolare. Ma no? C'è un motivo particolare perché oggi è la compleanno di Maurizio Bandelle, quindi l'equipe 84. E il nostro Lorenzo Nespoli non sa chi siano, ma questo va a sua lode. E chi sono? Ma questo fa capire. Discute. E anche il compleanno di Eric Clapton. Però Eric Clapton gli sono illuminati gli occhi, lo capisco, sì, per carità. Però perché pensava a Lori del Santo. Ecco, vedi, infatti. Vedi. Ma le sono le generazioni giovani, capisci? E io le apprezzo perché capiscono e gli sono noti. Sono grandi interpreti. Eric Clapton ha più o meno l'età di Vandelli, però Eric Clapton però Eric Clapton innanzitutto ha avuto una grande nuova ondata di ripresa della sua carriera dopo la tragedia, appunto, che lo colpì, no? Il figlio di 4 anni morto nell'80, e negli anni 90, negli anni 2000 ha fatto grandissimi concerti, grandi reinterpretazioni. Lui poi è un rearranger in questa sua ultima fase. Clamorosamente è tornato al blues iniziale della sua carriera. Il problema è che Maurizio Bandelli, hai vissuto gli anni 60 e 70 e Lorenzo naturalmente era ancora di là da venire, oppure ecco, queste canzoni qui non te le ricordi, come no, ovvio. Ma in realtà sì. Ed ogni sera, vabbè, lasciamo perdere comunque. E no, non, nella regia suscita meno entusiasmo. Ecco, e chi ho in mente? In questo caso si intende la Radio 24, l'azionista Confindustria, non ovviamente loro, ma comunque. Va bene, dai, non ci perdiamo nei nostri ricordi musicali e nel fatto di rivelare di che generazione siamo. Tra i tanti santi di oggi, 30 marzo, ne ho scelto uno che secondo Alessandro, me convince anche no, te. No, non c'è Alessandro. E un altro santo torinese di quelli che si ricollegano alla tradizione di Don Bosco, perché oggi San Leonardo Murialdo, lui era di famiglia borghese, però diventa teologo. E poi si dedica, ed è proprio Don Bosco ad affidargli il compito di un oratorio, l'oratorio San Luigi vicino alla stazione Porta Nuova, si dedica prima agli oratori, poi si dedica agli operai e fonda la prima associazione operaia cattolica di Torino, poi si pone il problema dell'informazione e fonda il giornale La Voce dell'Operaio a Torino, che poi diventerà il giornale diocesano La Voce del Popolo. Insomma, un'opera di apostolato sociale molto forte, tutta la seconda parte dell'Ottocento, un punto di riferimento anche delle classi industriali che iniziano a fermarsi a Torino nella fine dell'Ottocento, e morirà nel Novecento proprio di poliomielite, ma lasciando dietro una lunghissima fila di per esempio di case e casse di solidarietà operaia. Insomma, un uomo innervato in una dimensione moderna di che cosa voleva dire fare l'apostolato per i poveri, ed è appunto santo. E tra lui e il beato Amedeo IX, duca di Savoia, che è beato e si ricorda oggi, ma naturalmente rispetto chi preferisce il beato Amedeo IX, duca di Savoia, ma secondo me San Murialdo ne ha fatte qualcosa di più. Lui e Don Bosco a fianco. Lui si sentì malissimo 30 anni prima di morire. Don Bosco andò a trovare e dice: no, no, c'hai altri 30 anni da vivere. E andò esattamente così. Oggi nella storia, i Vespri siciliani nel 1282, la rivolta contro gli Angini francesi. E Vandelli. E anche il tentativo di assassinare nel 1981 Ronnie Reagan, che ricordo a tutti, conquistò anche i democratici con la volta, perché prima di entrare sotto i ferri del chirurgo si girò, si tirò su dalla sala operatoria, era in pericolo di vita, e disse: tutti i repubblicani, vero voi? E si rimise sotto i ferri con questa sua battuta. Allora, caro Oscar, sono le 8:24 minuti. Qui dovremo parlare oggi, torneremo a parlare della vicenda del TAP, ecco, TAP, questo acronimo per questo gasdotto che... Transadriatico, TAP. Esatto, Transadriatico Pipeline, che sta creando un po' di tensioni, di problemi, devo dire anche di contestazioni, non foltissimo il gruppo di persone che contesta, però ci sono persone, no, che contestano, anche a vari sindaci con la fascia tricolore, non vogliono che arrivi lì questo, in questo gasdotto. Con noi c'è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che salutiamo, buongiorno presidente, buongiorno. E ben ritrovato. Allora, una cosa da chiarire che in realtà l'abbiamo detta, io ricordo che lei ce lo disse anche un anno fa, cioè il presidente Emiliano non è contrario al gasdotto in sé, ma non vuole che arrivi lì, in questa località, a San Foca. Perché a San Foca cosa c'è? Beh, innanzitutto è un desiderio del territorio, che secondo me è corretto, evitare di inserire in una situazione ambientale di altissimo pregio, lì comincia un parco. Non è, lì non è proprio sede del parco, ma lì comincia un parco, diciamo così, costiero estremamente interessante, che crea ovviamente una grande attrazione turistica. Il timore dei sindaci legittimo è che inserire una grande opera con una centrale di decompressione grande 8 ettari in mezzo agli ulivi, sia pure distante chilometri dalla spiaggia, possa creare un impatto d'immagine, oltre che un oggettivo pericolo che loro considerano contrario alla vocazione turistica del territorio. Siccome la Puglia ha 900 km di coste, quindi il problema era facilmente risolvibile, spostando l'approdo, anziché su una delle più belle spiagge della Puglia, 30 km più a nord, in un'area di sedime del comune di Squinzano, già industrializzata, perché purtroppo c'è la centrale Enel che funziona a carbone, e sin dal 2013 il sindaco di Squinzano chiese di ottenere il gasdotto lì, perché in quel modo avrebbero potuto decarbonizzare la centrale Enel di Brindisi. Quindi, come vede, persone intelligenti che non dicono sempre no, non c'è nessuna sindrome NIMBY in Puglia, c'è solo la volontà di discutere. Il governo cosa fa? Neanche prova a trovare un'intesa con la Regione Puglia, parte diretto nella relazione con i privati, perché TAP è un consorzio privato, questa non è un'opera pubblica, sì, non è un'opera, diciamo, di diretto interesse per gli italiani. Gli italiani hanno un quantitativo di gas enorme che viene un po' da tutte le parti del mondo, quindi diciamo non c'è una situazione proprio di interesse. Ovviamente l'Europa ha un interesse strategico, noi per questo sosteniamo l'opera, peraltro siamo convinti che la decarbonizzazione possa essere fatta anche all'Ilva di Taranto, anche se su questo non c'è nessuna decisione da parte del governo, noi stiamo provando a discuterne, però purtroppo l'opera viene localizzata in quel luogo, però, noi siamo stati sempre contrari. Posso fare un'obiezione, presidente? Lei è un magistrato, sa che nei ricorsi fatti legittimamente, no, dalla regione, alcune merendugne e così, al TAR e al Consiglio di Stato, uno dei punti dei ricorsi, uno, diciamo, c'erano due centrali, uno è esattamente quello che ci ha spiegato, cioè le alternative non sono state esaminate come giusto che sia. Poi c'era un altro, è stato violato il principio costituzionale, per di più rimasto vigente dopo il referendum del 4 dicembre scorso, della necessità di una piena e leale cooperazione istituzionale tra lo Stato e le autonomie. Ma sul primo punto, perché far finta di non vedere che sia il TAR che il Consiglio di Stato, ricostruito l'iter della valutazione di impatto ambientale, ribadiscono entrambi che tutte le alternative sono state, come è giusto e come previsto dalla legge, prese in esame e scartate per ragioni di minore impatto ambientale oppure maggiori costi, eccetera, eccetera. Ecco, quello che mi colpisce è, prima domanda, perché far finta di non vedere che due livelli di giustizia amministrativa hanno dato esattamente la risposta a quello che, in definitiva, altrettanto legittimamente, lei ribadisce. Cioè, non è stata presa in considerazione l'esame di alternative. E i giudici amministrativi dicono, e come no? Punto numero uno. Allora, e poi dicono anche, ma così le faccio delle due osservazioni insieme, le consento di rispondere a entrambe, e dicono anche, guardate che a nostro giudizio il principio della piena e leale cooperazione con voi, quindi con la regione e con i comuni, risulta rispettato da tutto l'iter che ha avuto l'opera. Perché i giudici amministrativi dicono sì e voi dite no, non è vero? Ma perché noi non abbiamo mai potuto negoziare con il governo la localizzazione dell'opera, cioè noi lamentiamo di non essere mai stati convocati ai fini della, dello stabilire la cosiddetta intesa che è prevista dalla Costituzione. Per questo pende ancora un ricorso alla Corte Costituzionale e questo ricorso peraltro potrebbe essere deciso a breve e dunque gli errori di progettazione, che questa è un'altra cosa della quale non si parla mai, cioè TAP ha commesso talmente tanti errori di progettazione nell'iter che in questi mesi è dovuta intervenire la SNAM a supporto, gli sta dando loro una mano, stanno cercando di correggere l'infinita serie di errori che avevano commesso e che sono l'unica ragione del ritardo delle opere. E naturalmente una delle cose che i radioascoltatori devono sapere è che noi non abbiamo ancora la sicurezza che il Ministero dell'Ambiente li autorizzi davvero a fare l'opera lì, perché i difetti di progettazione del microtunnel sono talmente gravi che la valutazione di impatto ambientale su un microtunnel è ancora in corso. Però per la verità, Emiliano, ieri Galletti è intervenuto a Effetto Giorno da Simone Spezia e ha detto che la valutazione di impatto ambientale è stata fatta, che è tutto a posto. Galletti dice spesso delle cose sbagliate, io lo sfido in diretta radio a dire che il progetto del microtunnel abbia tutte le prescrizioni necessarie e lo sfido a dire che è cantierizzabile oggi, lui non potrà dirlo perché non è così e quindi la furia della gente sta nel fatto che gli ulivi li stanno spostando anche se non hanno ancora la certezza che il progetto del microtunnel passerà e in più stiamo aspettando la Corte Costituzionale sulla mancanza dell'intesa. Ma la Corte Costituzionale è un legittimo diritto anche dopo il Consiglio di Stato e su questo non discutiamo. Però lei ripete che siccome non hanno incontrato lei e il sindaco, la commissione via non ha fatto l'esame. È una cosa un po' diversa. Perché io capisco il livello politico. Non ci hanno incontrato. La commissione via è una cosa. Però la commissione via l'esame delle alternative le ha fatte. Sì, però le garantisco che la commissione via non ha ancora validato la localizzazione dell'opera con riferimento alla fattibilità del microtunnel. Io lamento inoltre che ai fini della localizzazione dell'opera, perché questo spetterà, Dio buono, alla regione stabilire dove deve arrivare l'opera, almeno questo, su quasi 900 chilometri di costa, non è mai stata neanche provata l'intesa sulla localizzazione. Questo ovviamente provoca la sensazione che l'interesse privato prevalga sull'interesse pubblico, dà la sensazione dell'arroganza e della prepotenza, dà l'impressione che lo Stato pensi di risolvere con i manganelli e con peraltro utilizzando i poliziotti che noi abbiamo impegnato nella lotta alla Sacra Corona Unita, io ho avuto l'onore di servire la Repubblica al loro fianco, l'idea di vedere i poliziotti schierati contro i sindaci, tant'è che stamattina ma mi non dicono sono che contro i sindaci, persino il monaco, persino il vescovo, chiedo scusa, ha chiesto una moratoria per parlare della localizzazione dell'opera. Ma Presidente, significa, ma se il Consiglio di Stato dice si proceda e il Ministro dell'Ambiente fa l'ordinanza, ma non si metta a fare il demagogo ai poliziotti sottratti alla lotta alla Sacra Corona Unita. Mi perdoni, vedere i sindaci confrontarsi con i poliziotti per me è un grande dolore. Se per lei è un fatto demagogico questo... No, però la legalità, che cos'è la parola legalità se non il fatto che dopo le sentenze si procede? Mi perdoni, la legalità consiste nell'ascoltarsi reciprocamente quando dal punto di vista politico bisogna decidere la localizzazione di un'opera e non sopraffarsi vicendevolmente. Questa è la legalità in Italia, significa che regioni e governo devono trovare un'intesa sulla localizzazione di una grande opera. Questa intesa non c'è mai stata. E ovviamente noi ci stiamo sforzando in una condizione di difficoltà enorme perché TAP è un gigante che ha molto denaro, ha la capacità di comunicare molto meglio di quanto non possiamo fare noi e ciò nonostante la popolazione pugliese sta resistendo chiedendo di poter spostare l'opera di 30 km. Sta resistendo contro le sentenze, signor magistrato. Sentiremo la Corte Costituzionale. Mi perdoni, la sentenza del TAR riguarda una situazione giuridica piuttosto vecchia e superata ed è arrivata a sentenza. Adesso stiamo chiedendo di poter spostare l'opera di 30 km in un'area che noi indichiamo, che non è dannosa e che avrebbe il consenso della popolazione. siamo favorevoli all'opera. È la prima volta che una regione non è contraria e basta. Sta cercando di collaborare con il governo e non ci riesce, perché è diventata una battaglia politica durissima, che dura da tanti anni. Ma infatti lei per primo lo ammette che dovremo, è una battaglia politica. Ho capito che molto probabilmente ci dovremo piegare tutti, ma rimarrà una ferita gravissima questa, perché piegarsi di fronte a questo modo di fare è una di quelle cose che sottrae fiducia ai cittadini e che poi li spinge a reazioni. Io mi auguro non lì su quel luogo, perché quelle proteste sono solo pericolose dal mio punto di vista, anche se sono comprensibilissime, ma li spingerà ad una sfiducia tale le cui conseguenze politiche saranno gravissime, che noi non sapremo come spiegare perché non si può spostare un'opera di 30 chilometri quando un'intera regione chiede questo spostamento. Presidente, però siccome lei ci deve lasciare, una domanda però gliela dobbiamo fare in conclusione su quello che è avvenuto ieri, visto che lei è andato in procura a Roma, non ci dica però non posso dire nulla, perché questo non vale. Certamente non vi posso riferire. No, non ci può riferire, diciamo, ma qualcosa ci dovrà dire di questi... Ma niente, ho fatto banalmente il mio dovere di testimone, come mi è capitato di fare. Cioè, portando gli sms che ha ricevuto, insomma, gli sms ricevuti da Lotti. Semplicemente dicendo quanto a mia conoscenza, senza nascondere nulla, come sempre. Posso fare un'altra domanda solo secca? Prego. Qui sia al politico, presidente della regione, e chi ha magistrato aspettativa. Che il giudice che a Taranto ha svolto, insomma, indagini con un impatto molto forte in questi ultimi anni sulla drammatica vicenda dell'Ilva, si candidi lì, secondo lei, corretto, normale oppure problema? Ma, in tutta sincerità, non mi pare che sia andato in pensione, quindi sì. Non è neanche più magistrato. Il fatto che lui si candidi è un suo diritto. Questa idea che i magistrati si debbano candidare, diciamo, in un posto dove nessuno li conosce, no, è singolare. Ma non in un posto in cui persona, non in un posto, lo sa che ci sono ragioni istituzionali, no, sulla coincidenza tra vale distretto per tutte le categorie umane. Se lui si è comportato bene da magistrato e sente di aver fatto il suo dovere, non vedo nulla di drammatico nella sua candidatura. E infine, come vanno le primarie, Emiliano? Non benissimo. Ma devo dire che questa fase del tesseramento era prevedibile che andasse in questo modo, perché in tutta sincerità io non ho mai avuto una rete nazionale. Mi auguro che il 30 aprile sia un'altra storia, nel senso che quando potranno andare a votare tutti i cittadini la vicenda cambi. Sinceramente in questo momento, però, di fronte a quello che sta succedendo in Puglia, insomma, nelle primarie mi interessa un po' meno, mi scuserete se sono così demotivato, diciamo, nel rispondere contemporaneamente a due argomenti che non stanno insieme, nel senso certo. Che in questo momento c'è un dramma pugliese che è la mia principale preoccupazione. Va bene, noi la ringraziamo intanto per essere stato con noi, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Grazie. Allora facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, poi continuiamo l'argomento. Non ho dato il numero di telefono, ma è il solito 800 24 0024. Se volete chiamarci su questa vicenda, come l'avete capita, come l'avete percepita, perché noi tra poco avremo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, e insomma continueremo a affrontare l'argomento, e state con noi ovviamente. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, alle 8:41 minuti. Tra l'altro, bisogna dire che ieri il sindaco di Squinzano è intervenuto per correttezza di informazione a dire: guardate che Emiliano in realtà dice che noi siamo favorevoli, noi abbiamo dato solo un parere a discutere favorevolmente sulla fattibilità dell'opera, ma non abbiamo mai detto fatela qui a Squinzano. Quindi adesso c'è anche il sindaco di Squinzano arrabbiato che dice: Emiliano quanto, ci tira in causa. Quanto ma mi amareggia a vedere che un magistrato si mette a fare teatro, cioè. E lo dico con rispetto, non lo dico adesso perché glielo ho già chiesto tre volte, cioè, non si può dire non è stata presa in considerazione le ipotesi. Tutto l'iter della valutazione di impatto è esattamente l'analisi nei dettagli di ogni singola ipotesi e sottoipotesi fatta per quasi 20 tipologie diverse, 12 alternative diverse prioritarie e alcune sottotipologie. Non si può dire non mi interessa, non hanno ricevuto i sindaci e il presidente, perché è un altro paradigma, è una questione politica. Infatti lo stesso ha detto, è una questione politica, come si vede politica, si dice Squinzani, il sindaco di Squinzano dice io no, disposto a discutere, l'Italia è disposta a discuterne, è quella che non ha mai fatto poi le opere, ed è così, è come il rigassificatore di Brindisi, la società britannica dopo 14 anni ci ha educatamente salutato, ha speso un pacco di quattrini in vano e ha detto l'Italia mai più. E questo è il problema. Obiettano, non abbiamo bisogno del gas, non abbiamo bisogno del gas. Uno va a vedere l'ultima versione annuale del rapporto costi del non fare e scopre quanti megawattore aggiuntive di qui al 2030 abbiamo bisogno. Ecco, e invece è tutto così. Quindi all'opinione pubblica la cosa che mi colpisce, e mi taccio, è che la politica non fa che ammanire ogni volta versioni radicalmente diverse di cose fattuali. Si smarrisce ogni linguaggio comune e diventa un paese in cui alla fine chi blocca di più, e mi dispiace, chi urla di più, oppure chi dice che i poliziotti sono sottratti alla lotta alla Sacra Corona Unita per manganellare la legittima protesta gandhiana, ecco, alla fine una politica così secondo me non è nell'interesse di nessuno. Naturalmente sbaglierò io, per carità. Con noi c'è Davide Tabarelli, che ringraziamo e salutiamo, il presidente di Nomisma Energia. Buongiorno presidente, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie. Allora, a me è colpito quando Emiliano, tra le varie cose che ha detto, dice la sensazione che l'interesse privato prevalga sull'interesse pubblico, no? Poi lì ha parlato appunto l'idea del manganello che colpisce. Che ne pensa? Si mette in evidenza la grande e profonda contraddizione della nostra sinistra storica mondiale, direi, ma in particolare nel nostro sud, che si vede l'attività privata, quella che è tipicamente quella industriale, come qualcosa di negativo, in particolare se si parla di profitto, perché è illegittimo per definizione il profitto in base a queste visioni eterocomuniste del passato. Purtroppo si dimentica di raccontare che tutte le tasse che vengono pagate in un sistema moderno derivano più o meno dal profitto, dalla ricchezza, dal valore aggiunto. E quello che è il TAP, di cui è stato parlato male, che sono degli incapaci prima, da un ex giudice appunto, o tuttora giudice, non è chiaro, un giudizio estremamente negativo sull'incapacità di fare impresa di queste società, che sono le prime che dovrebbero venire da noi in Italia perché hanno dei soldi giustamente da investire, fare profitto, fare tasse per pagare quei poliziotti. Occorre chiedersi anche chi li paga, quelli lì, da dove prendiamo i soldi per pagare quei 200, quanti erano, per 300 persone che legittimamente protestavano, ma occorre dire che è sbagliato protestare su queste cose, perché c'è un danno per non fare degli investimenti che creano del profitto, che è qualcosa di invece che dobbiamo stendere tappeti rossi noi, perché cioè, è questo, cioè dobbiamo ribadire che l'impresa, che questo è un esempio di impresa, è quella che fa la ricchezza. A proposito di approvvigionamento, invece, Emiliano dice anche non abbiamo bisogno di gas, ecco, appunto Oscar Giardino sentiva il contrario. Innanzitutto, cioè, poi anche questa è una visione attualmente, sì, se l'Europa smette di crescere, se l'Italia smette di crescere, esatto, che è legittimo, se crediamo anche in quello che dicono molti, che piace sentire, che è bello sentire, che dopo domani, il prossimo mese andremo tutto a solare e a eolico, allora sì, non ne abbiamo bisogno. Tuttavia le cose non stanno così, anche qua bisogna dire chiaramente che non è la realtà questa. L'Europa deve ritornare a crescere, deve ritornare a consumare energia, magari la vuol fare in maniera più pulita, allora serve il gas, e questo gas deve venire da più parti. Per 20 anni, 30 anni abbiamo parlato del corridoio sud, questa è un'opera importantissima proprio per questo. Giustamente Emiliano ha detto che è di interesse comunitario, per questo anche gli ci metteranno dei soldi, con agevolazione di finanziamento, che fra l'altro finanziamo anche noi italiani indirettamente, per realizzarla. È un'opera che arriva dal Caspio, 80 km al largo di Baku, e porta per 3.500 km del gas, attraversando la Turchia, arrivano 10 miliardi di metri cubi, noi ne consumiamo 70. Tra l'altro l'Italia è piena ancora di gas, ma non si riesce a sfruttarlo, sempre per ostilità ambientale, dobbiamo importarlo. Il buon senso suggerisce di diversificare, abbiamo Nord Africa, Libia e Algeria, che fra l'altro vengono attraverso due gasdotti che sbarcano in Sicilia, non si è mai visto delle opposizioni così. È surreale vedere spostare 200 ulivi addirittura impacchettate come che fossero un'operazione chirurgica, che ben venga, si faccia, ma anche qua bisogna dire che non sono operazioni gratis che noi non paghiamo. Noi abbiamo un unico rigassificatore fatto di grande dimensione, oltre a quello di Livorno, quello di Rovigo, è l'unico caso al mondo, l'abbiamo fatto al largo per consentire dei passeri o degli uccellini di passaggio in migrazione di poter nidificare lì nella zona di Rovigo, ma questo spostamento al largo non è stato gratis, invece sì, di farlo su terra che sarebbe costato $1 miliardo, l'hanno fatto al largo che è costato 3,5. Su questo però adesso non, è questo che, non non voglio fare la difesa dei 200 ulivi, ma un po' sì, nel senso che ci sono anche queste cose nel mondo, 200 ulivi che vengono, che vengono ripiantumati e certo, ripiantati certo, e neanche hanno va un bene, costo, però va bene, però è giusto sostenerlo. Chi fa notare che è stata inaugurata poche settimane fa opera dell'acquedotto pugliese, dove ne hanno espiantati 3500, e espiantati e basta, nessun problema però, dai. Ma infatti è giusto toglierli e ripiantarli, difendendo, no, perché la soluzione alternativa è eradicarli e abbatterli, è su questo. Ti voglio dire, ecco, queste cose accadono solo in Italia, però è il paese dove la regolazione ambientale è la più attenta, la più severa in Europa, è anche la più confusa, e nonostante ciò ci sono i comitati che sono molto fertili per ragioni politiche, e questo però porta non investimento, che vuol dire non tasse, non sviluppo, e pertanto io voglio sapere, poi vogliamo che le spiagge siano bellissime, ma se non facciamo le strade per arrivarci, non facciamo gli aeroporti, le ferrovie, gli alberghi, che poi dopo funzionano solo 2 mesi all'anno. Cioè, è bellissimo parlare di queste cose, sarebbe bello. È un mondo però superficiale, deresponsabilizzato da parte di questa politica. Le cose nella realtà di energia ce ne vuole tantissimo, ci vuole gas, e ben venga chi vuole investire qua. Tra l'altro un ascoltatore dice: Emiliano vuole spostare 50 km no TAP, noi no TAP siamo anche lì a 50 km. Vabbè, quelli che sono per il no lo saranno ovunque, no? Nel momento in cui lo spostano in qualsiasi parte d'Italia o del mondo. C'è Alberto che ci chiama da Reggio Emilia, sentiamo cosa ci vuole dire Alberto. Sì, parlavo appunto, entravo nella questione del metodo io del tubo, sì. Mi aveva, Giannino ha già anticipato il fatto che mi sembra davvero strano che la regione non sia stata ascoltata, perché quando viene rilasciato un permesso ci sono almeno 4 pagine di premesse, visto che è considerato che è sentito che è visto che è ancora così, e che in queste 4 pagine di premesse la famosa burocrazia italiana, ma anche un passaggio in cui non c'è stato confronto con i rappresentanti delle zone all'interno della regione, mi suona proprio strano. Aumentiamo un altro po' la burocrazia, cioè da un lato si dice che abbiamo troppa burocrazia, che sono queste famose 4 pagine di premesse in cui bisogna allineare i famosi 7 pianeti per muovere anche solo un chiodo, poi una volta che è stato rilasciato il famoso permesso viene impugnato, va al TAR, va in Cassazione, viene ancora rilasciato un'ulteriore sentenza, passa la sentenza, allora arrivano i comitati perché dicono che non sono stati ascoltati, allora torniamo da capo. Sì. Allora, è un po' la storia di molte, lei fa in sintesi la storia di molte opere italiane. Cioè esatto, un ordinamento che non funziona, capisci? Sì, è un po' esatto, così. Vabbè, esatto. Ma i contestatori per principio non li metterei molto nel dibattito, nel senso che quelli contesterebbero comunque anche di fronte a 8.000 sentenze. Ma qui stiamo parlando della facoltà concessa ordinamentalmente agli enti locali. Noi, siccome non abbiamo una legge come quella francese, il debat public, si dice da vent'anni pezzi della sinistra, faccio un nome tra tutti stimatissimo, Bassanini chiede che venga adottata, tutti fanno la promessa, noi non la adottiamo mai. Cos'è la particolarità di questo debat public, 2 parolette in francese? Che è una procedura amministrativa per le grandi opere pubbliche, quelle in cui ci sono sia interessi locali che nazionali in campo, però ha 2 caratteristiche. Primo, tempi rigorosi, certi, non scalfibili con le impugnative. Perché chi non fa sapere subito quali sono le sue obiezioni non può poi ripresentarle più avanti agli stadi successivi del processo. Ok? Secondo, tempi rapidissimi, anch'essi certi, per le impugnative. Non si può utilizzare lo stesso regime pluriennale delle prescrizioni di reato per le impugnative amministrative nelle opere pubbliche francesi. Risultato, le opere pubbliche hanno tempi certi, che servono anche per ricalcolare il ritorno sugli investimenti necessari a farli, mentre chi viene in Italia non ha mai tempi per poter capire quanto tempo il suo capitale dovrà, e se non hai il tempo per sapere qual è il tempo in cui devi aspettarti il ritorno, non lo impegni il capitale, no, per dirne un'altra. Ecco, e in Francia si fa così, da noi invece no. E, caro ascoltatore, il Presidente della Regione le ha detto chiaramente, sottinteso, se il Consiglio di Stato dicono che l'aveva esaminato tutte le alternative che amministrativamente avevamo fatto presente, per me, Presidente della Regione Puglia, se non ci hanno incontrato personalmente, la piena e leale collaborazione politica deve essere un incontro politico tra me e i sindaci e il governo. E invece non c'entra niente. Però cosa vuole? La politica è così. Quindi la mettiamo sul soggettivo. Sì, direi. Mia opinione. Allora parliamo caso. Di niente. In ogni caso, noi ci dobbiamo fermare qui. Dispiace Giulio da Bari, ci teniamo il numero di telefono se vuole per domattina, perché il tempo oggi è scaduto. Ringraziando Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che è intervenuto con noi. Che dire, con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Mescapè, con Lorenzo noi Nespoli, ci fermiamo. Ci facciamo un rapido ripasso. Con Lorenzo adesso. Nespoli dobbiamo fare un ripasso anche di musica. Perché. Vedi, sta facendo una lezione accelerata storica. Adesso lo interroghiamo anche sui nomadi Dick Dick alla fine. Nomadi prima maniera con Augusto. Con Augusto. No, ci parte da grandissimo Augusto, ci mancherebbe altro. Allora dai, a domani. Penso e doi mettete.